Molto probabilmente il passaggio del popolo di Israele attraverso il Mar Rosso in terra asciutta e i relativi 40 anni di cammino nel deserto per arrivare nella terra promessa sono gli eventi più spesso ricordati nella Bibbia. Per alcuni questo periodo potrà essere considerato una favola o un evento epico alterato nel tempo, ma queste sono opinioni poco probabili perché a questo episodio si è rifatto più volte Dio per trarne dei principi morali e, moltissime volte, anche i profeti che sostenevano di parlare da parte sua. Anche al più sprovveduto è evidente che un principio morale, basato su di un evento non realmente successo, non può reggere nel tempo, mentre gli scrittori biblici, dopo migliaia di anni meno, e precisamente all'inizio della nostra era meno, si sono rifatti proprio a questi clamorosi eventi. Prima di morire, il protomartire Stefano disse ai suoi accusatori in merito a Mosè. Egli li condusse fuori, operando segni e prodigi nel paese di Egitto, nel Mar Rosso e nel deserto, per 40 anni. Questo è quel Mosè che disse ai figli di Israele: «Il Signore Dio vostro susciterà per voi tra i vostri fratelli un profeta come me. Ascoltatelo». Atti 7.3.6.37. Anche l'autore della lettera agli Ebrei ricorda Mosè con queste parole: «Per fede celebrò la Pasqua e fece l'aspersione del sangue, affinché colui che distruggeva i primogeniti non toccasse quelli di Israele». Per fede passarono il Mar Rosso come se attraversassero una terra asciutta, quando invece gli egiziani tentarono di fare ciò, furono inghiottiti. Ebrei 11.2829. Se non si è contrari a eventi soprannaturali, tanto per negare il trascendente, non si può che rimanere scioccati constatando quanto amore e quanta cura abbia avuto l'Eterno per il popolo di Israele, amore e cura mostrati, del resto, anche in seguito. Sarebbe però un grosso errore fermarsi solo davanti a questa verità perché vi è un aspetto dei sentimenti dell'Eterno che merita d'essere preso in considerazione per non cadere in un romanticismo inutile e dannoso riguardo all'amore di Dio. Parlare dei sentimenti dell'Eterno è molto importante perché non solo l'Eterno è antropomorfico, cioè possiede qualità umane, sia fisiche, intellettuali e morali, ma possiede anche caratteristiche antropopatiche, cioè possiede passioni umane e psichiche. Vale la pena di ricordare sempre che se noi uomini possiamo attribuire delle caratteristiche umane alla divinità, non è perché Dio assomiglia all'uomo, ma perché l'essere umano assomiglia a Dio, perciò noi siamo in grado di comprendere il Dio della Scrittura, solo perché Lui ci ha fatti a sua immagine e somiglianza. Quindi, se noi possediamo qualità fisiche, morali, intellettuali e passioni, è perché Dio possiede queste qualità. Sembra un'assurdità, ma parlare dell'amore di Dio è uno dei temi più difficili da affrontare. Infatti, se Creo è una cosa che in questa vita noi uomini non possiamo vedere, è proprio l'amore del nostro Creatore. Tutti, prima o poi, ci siamo chiesti come possa Dio amare la sua creatura quando c'ha e tanta sofferenza e tanta ingiustizia. E, come se non bastasse, coloro che hanno posto fede in Cristo spesso sono quelli che soffrono di più. Inoltre, se Dio fosse amore in modo così evidente, tutta la Scrittura sarebbe impregnata di questa verità, mentre nella parola di Cristo solo due volte viene detto che Dio è amore, e soltanto nella prima lettera di Giovanni, ossia alla fine della Bibbia. Viene da chiedersi la ragione per cui i profeti non hanno mai affermato che Dio è amore. Inoltre, allibisce che l'Apostolo Paolo, nelle tante lettere dove ha esposto tutte le dottrine del cristianesimo, non abbia mai detto una volta in modo esplicito, come Giovanni, che Dio è amore, anche se ha parlato molto dell'amore di Dio. Eppure, il messaggio che Dio è amore sembra costituire il principale ed unico biglietto di visita di chi predica l'Evangelo, come se la dottrina dell'amore di Dio fosse una delle più facili, mentre invece è una delle verità più difficili da comprendere, né dimostrazione la difficoltà di cogliere un'espressione sorpresa sul volto alla quale si dichiara che Dio l'ama. «Perché Dio non dovrebbe amarmi?» si chiedono le persone. E, dando scontato l'amore divino, esse si domandano di conseguenza: «Perché dovrei andare nel luogo della perdizione se Dio mi ama?» Un'ulteriore difficoltà nella comprensione dell'amore di Dio viene dal concetto romantico e non appropriato a esso applicato. Infatti, cogliamo l'atto d'amore quando l'Eterno ha fatto passare milioni di persone attraverso il Mar Rosso e il fiume Giordano su terra asciutta. Es 14.21, GS 4.18, SL 66.6, e nella cura che ha avuto di loro, per 40 anni li hai nutriti nel deserto e non mancò loro nulla, le loro vesti non si logorarono e i loro piedi non si gonfiarono, nei 9.21, senza però notarne l'espressione nella profonda disapprovazione o avversione di chi ha. Infatti così l'Eterno i pronunciò in merito al suo popolo. Per 40 anni ebbi in disgusto quella generazione, e dissi: sono un popolo dal cuore sviato, e non conoscono le mie vie. Perciò giurai nella mia ira: non entreranno nel mio riposo. SL 95.1011. Chi avrebbe mai pensato che l'Eterno era disgustato del suo popolo? Dopo tutte le opere d'amore compiute a suo favore? Parlare del disgusto del Dio d'amore delle Scritture sembra irriverente, e si può essere indotti a pensare che il termine relativo a tale sentimento divino sia stato tradotto impropriamente, tanto è vero che alcune traduzioni hanno preferito parlare dell'irritazione di Dio, ma lo stesso vocabolo specificante l'atteggiamento di Dio si trova altresì nel libro del Levitico, dove l'Eterno impiega questo termine, ma questa volta in modo positivo: malgrado ciò, mentre essi saranno nella terra dei loro nemici, non li disprezzerò e non li prenderò in disgusto fino al punto di distruggerli, rendendo vano il mio patto. Levitico 26, 44. Dunque, l'Eterno promise che qualora il suo popolo si fosse allontanato da lui, non lo avrebbe giudicato decidendo di cambiare le cose, o mostrando di non desiderare di trovare piacere in nulla. Il che significa essere disgustati, ma avrebbe agito a favore del popolo di Israele per mantenere fede al patto fatto con i patriarchi. La sua fedeltà nel corso dei secoli non è impedito che nei 40 anni di pellegrinaggio nel deserto, causato dall'incredulità e dal continuo mormorio del popolo, l'Eterno provasse grande disgusto o avversione nei loro confronti. Lo dice espressamente nel Salmo 95, che viene citato più volte nella lettera agli Ebrei. Leggiamo il contesto nel quale esprime il suo disgusto. Venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti all'Eterno che ci ha fatti. Poiché Egli è il nostro Dio, e noi siamo il popolo del suo pascolo e il gregge di cui Egli si prende cura. Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove i padri vostri mi tentarono e mi misero alla prova, anche se avevano visto le mie opere. Per 40 anni ebbi in disgusto quella generazione, e dissi: sono un popolo dal cuore sviato e non conoscono le mie vie. Perciò giurai nella mia ira: non entreranno nel mio riposo. SL 95.7.1.1. E, molto importante considerare il disgusto di Dio nel contesto del suo amore, perché chiunque lo prende sul serio ne trarrà una lezione in grado di trasformare positivamente la sua vita. Dunque, abbiamo considerato che l'Eterno ha grandemente benedetto il suo popolo nei 40 anni di pellegrinaggio nel deserto, ha compiuto ogni giorno a suo favore opere straordinarie, ha dato delle buone leggi, la manna ogni mattina, ha provveduto la carne e, forse quello che più contava, ha provveduto a dissetarli in una terra arida senza acqua, DT 8.15. Eppure nel cuore dell'Eterno Dio vi era un forte disgusto o una vera avversione. In definitiva li prese in uggia. Considerando seriamente l'atteggiamento dell'Eterno Dio nei confronti del popolo di Israele e calandolo nella realtà della nostra vita, si resta sbigottiti. In genere gli uomini vedono e lodano Dio, perché è Lui che dà a tutti la vita, il fiato e ogni cosa. Atto 17.25. Mentre coloro che sono stati resi santi per un atto di fede in Cristo lodano Dio perché ha dato suo Figlio, e perché ogni giorno vedono la sua provvidenza. Ma questa consapevolezza produce nella coscienza delle persone anche un effetto devastante, capace di ottenebrare un'altra grande verità: essere oggetti dell'amore di Dio non è automaticamente un segno della sua approvazione. Come l'Eterno Dio colmava di benedizioni e adempieva alle necessità del suo popolo, pur non approvandone le azioni. Purtroppo, relazionarci con Dio sulla base delle opere è duro a morire. Solo una vera rivelazione della persona dello Spirito Santo può innescare un vero rapporto basato sulla grazia. Troppi credenti sono beatamente soddisfatti perché Dio concede loro una vita serena e tranquilla, senza grandi traumi. Una possibilità economica discreta, essendo nel loro intimo pienamente convinti non solo di essere l'oggetto dell'amore di Dio, ma anche che Dio approvi la loro condotta in tutto e per tutto. E così è sempre stato. Lo dimostrano le lettere dell'Apostolo Paolo, nelle quali con un disperato amore intelligente sprona i figli di Dio a lasciare atteggiamenti sbagliati e pensieri distorti. Occorre perciò che i figli di Dio, in attesa del ritorno di Cristo, esaminino alla luce della parola di Dio i loro atteggiamenti e i loro pensieri, che abbandonino il male per attenersi fermamente al bene, perché una vita agiata e serena può provenire anche da un Dio sdegnato e disgustato di loro. Una verità questa che fa accapponare la pelle. È bene tenere sempre presente che molte persone che hanno ottenuto da Dio delle grandi benedizioni spirituali come lo scacciare i demoni, l'aver profetizzato nel nome di Cristo e fatte nel suo nome opere potenti, un giorno saranno mandate nel luogo dei dolori eterni come operatori di iniquità. Forse nel luogo della perdizione la confusione più grande di queste persone proverrà da non essere in grado di far conciliare i favori di Dio con il disgusto che lui provava nei loro confronti. Se il popolo di Israele, dopo aver gustato per 40 anni grandi benedizioni, si sentì dire dall'Eterno «Non entreranno nel mio riposo», questo vale anche oggi per il suo popolo, la Chiesa, e per chi esercita doni stupendi come compiere guarigioni, predicare l'Evangelo, compiere opere di pietà, esercitare l'ospitalità, esortare chi parla in lingue, essere conduttori di comunità come pastori, sacerdoti, vescovi e il Papa stesso, perché l'Eterno Dio può tuttora essere indignato nei loro confronti causa il loro comportamento. La verità è stata detta. Ignorarla aumenta il disgusto di Dio. Marzo 2007, Ellero.